A me, a Giulio. Sì, ma c'ho fattore, voi siete impegnati, io sono scapoletto e voi fate il diavolo, mi fate dei giovani per farmi tutte le belle fanciulle. Ma Ianita due trisci e due guadagni a quadrissimi, il Donino giù, a due pareggi. Per il resto l'anagrafe si può anche cancellare, possiamo ridurre il numero. Ehi, hai esito Giulio, non ti ha fatto assai, tu puoi ciabbare dell'anagrafe, puoi ciabbare chi so che vuoi, ma l'ufficio continuo è sempre chisso, ormai è già inoltrato, quindi non è per offese, ma nel senso che c'è già grandezza ci vede, io sono sempre meno pippante e come piacciono le donne. Quanto sei malizioso. Insomma, Natalì, non c'è rimedio secondo Tonino? No, non c'è rimedio, no. Non molla mai Tonino. No, c'è bene. Io quando vedo le donzelle, le guardo nelle pupille degli occhi e già gli occhi miei dicono qualcosa e non la capiscono a volo. Buonasera Gianni, avanti. Buonasera di nuovo a tutti, scusate ma ho ricevuto una telefonata, ho dovuto rispondere e basta, tutto lì. Vabbè, riprendete. Già, io ho ricevuto una telefonata poco fa e sono l'uomo più felice del mondo, credimi, mi ha chiamato l'avvocato, mi ha dato la data e devo andare dal medico legale per l'assicurazione, quindi si paga. Buono. Però devo andare sull'ospedale, fammi dare la cartella clinica, bisogna prepararmi, se faccio in tempo, dentro il 23 si do, richiamo l'avvocato e mi sposta la data. Proprio ci sto pensando, chissà quando si scende le chiste, a me invece. Ma già ti danno quello che hai richiesto, perché certe assicurazioni cercano di contattare. Contattato l'avvocato, dice, a me non mi devono chiamare l'assicurazione, chiamo l'avvocato, capito? Hanno solo parlato con l'avvocato. Dica anche l'incidentato di venire qua con tutti i documenti e la cartella clinica, con copia e fotocopia, l'originale e fotocopia, capito? Quindi, e anche CD praticamente devo richiedere. Ah, va bene, là. Andare, da Natale, sì. Comunque già, ma scusa Natale, una cosa l'ho già premessa, ho detto anche Natalino, appena ci faccio una bella cenetta. Vabbè, non c'è problema, non c'è bisogno, là. No, c'è nonna, cosa cenetta, non me la fai. Anche se un bel, è stato un po' tutti i comici, molto amarica. Vabbè. Già l'hai sofferti qui 5 mesi KK. Avanti Giulio. Ok già. Beh certo Tony, ti aspettano, per cui perché non li devi avere? Io lo grido a Maragana. Lo so che sono un pochino lenti quelle dell'assicurazione, però poi quando arrivano e sono buoni. Bene, ma almeno se non altro ti soddisfa la cifra, te l'hanno già detta. No, devo andare al medico legale, poi il medico legale riferisce all'assicurazione, che sempre dell'assicurazione mi deve pagare, poi fanno l'offerta, giustamente, e io so già che l'offerta non mi basta, io voglio un me, io minimo che voglio sono 50.000, minimo, perché più in basso le cicome ce ne comprano loro, per ciò che ho passato da Giulio e quello che ho sofferto ogni giorno lo so solo io, non lo auguro a nessuno. Lo sai solo tu, ma ti capisco anch'io però, per cui fai bene, tu già lo sai, questa gente qua lo tengono sempre a tirare, a diminuire quello che dovrebbero dare in caso di infortuni eccetera. Io Guglia, le sofferenze sono state le tue, per cui fai bene a pretendere. Ma se non ti va a futti. No, guarda, allora, scusate, Natalina e Gianni, io quando ero ragazzo, quello avevo 16 anni, 17, una professoressa ha superato un camion, mi ha preso in pieno con la moto, 48 che c'avevo, e via Principessa Maria, via Rizzizio, quella zona lì, e tirò che 3 mesi sono stato, il gesso, la moto rotta, eccetera, eccetera. Nel 73, 72 forse, non mi ricordo bene, comunque gli anni 70, i primi, e mi hanno offerto 1 milione, no, 2 milioni, no, 3 milioni, no, alla fine sono arrivate a 5 milioni e così, e li ho presi. Allora 5 milioni e non poi i soldini, no Giulio. Certo che sì, sì, perché fanno così. Loro prima partono da un minimissimo e poi naturalmente l'utente fa delle altre richieste, allora un po' alzano il prezzo, è ovvio. Sì, ma fai bene. Appunto è quello che ti volevo dire, non farti fregare, vabbè, tu non sei lì su carattere, farti fregare Gianni, vado per correre. E il massimo possibile. Loro i soldi già se li prendono quando ci sono gli aumenti, eccetera, già li vogliono i soldi, per cui quando è arrivato il momento di pagare devono anche pagare. E infatti giù. Cazzo, mia voce che anda a pagare all'assicurazione è sempre aumentata, e io pago, è giusto che paghino anche loro se succede qualcosa. Ma tu se tu dici l'assicurazione Natale, dove te l'ho fatta fare io? No, al chilometro ce l'ho, che pago una cavolata, che sono in prima classe io. Io incidente non ho già mai avuto. Quanto paghi all'anno? 300 euro. Sì, che? 300, 150 ogni 6 mesi ne pago. E io pago più o meno lo stesso. Avanti break, avanti, scappa Carlo, dai. Ciao, mi sentito, non te lo posso dire perché ti sento basso, però dai, ti starai avvicinando a Sassari, peso, stai andando o tornando? Scappa, rotatoria non ho capito dove sei, dei due mari ho capito. Scappa, dai, ti ascolto comunque. Avanti Giulio. Ok, no, io non lo ascolto, purtroppo io non lo ascolto. Ciao Carlo, se mi stai ascoltando, salutoni. Sì, ma è così già, purtroppo sai, queste assicurazioni è il loro lavoro, è la verità, e chiaramente fanno i loro interessi, però quando trovi una persona che si sa far rispettare è meglio così. Vediamo se è rientrato Tonino. Toni, no, sta girando ancora il mio astrome. Avanti Natali. Signori, io vi devo lasciare, purtroppo riprendo per salutarvi, è arrivata la 50 qua e purtroppo dobbiamo preparare qualcosa per mettere sotto i denti. Dai, vi ascolto comunque, non c'è problema. Buonasera a tutti, salutando anche gli SWL all'ascolto. Ciao Natali, ciao, ci sentiamo, grazie per il QSO, dai, anche se io stasera mi sono trattenuto poco perché ho avuto quella telefonata di un amico che tra l'altro ho conosciuto in ospedale, quindi ci telefoniamo sempre, abbiamo fatto amicizia, anche se ci siamo visti per un giorno solo, siamo diventati amici. Kappa, avanti se è rimasto, anzi no, avanti Giulio per i saluti. Ok, ciao Natali, salutoni, dai. Grazie per queste quattro chiacchiere che abbiamo fatto, per cui vabbè, io sono entrato molto tardi. Va bene, va bene. Sì, è sempre quello. C'ero anch'io stamattina in ospedale per il controllo già, per la routine di un bel po' di tempo ancora. Vabbè Giulio, interessante che vada sempre bene. Sì, è andato tutto a posto, tutto in ordine. Va bene, va bene. Vediamo un po' se Carlo mi sente, casomai mi fai la ponte. Carlo, mi senti? È tutto più bello, ti senti Giulio? Ti sente, io lui purtroppo ancora non lo sento. Ma sta rientrando o sta andando al lavoro? Sta rientrando. Ah va bene, allora è questione di qualche minuto, poi lo ascolterò bene anch'io. Va bene, va bene, così funziona. Tonino, sei rientrato? Niente da fare, Tonino ancora non è rientrato. Riprendi Gianni. E capo, bisogna che cambi questa ciabatta. Si accende, si spegne, boh. Dobbiamo avere qualche torto, o gli unisco i fili e la faccio fissa, oppure la cambio, ma la cambio tanto, cosa costa la ciabatta. Ma Carlo, mi ascolti bene? Carta, sto andando con Luis adesso, dai, con il Luis. Avanti Tonino, se ascolti Carlo da Alghero. Sì, l'ho sentito, e infatti per quello che ho aspettato che finiva Lupre dici che sono arretrato. Carlo, non so se mi senti, ma penso di no perché sono un po' zona negativa, boh. Sì, Tonino, ti sento forte e chiaro qua. Sto per uscire dalla strada due corsie e immettermi adesso sulla quattro corsie. Ah, sì, sulla quattro corsie, mi senti, forte e chiaro, meglio così, sono contento. Lomeda, chi c'è rimasto qua, Giulio? Sì, sono qua ancora, infatti ti ho chiamato due volte, ho pensato, ma sta girando ancora il minestrone Tonino. tornando al discorso ciabatta, Gianni, io me la sono autocostruita, ho comprato le prese, i frutti normali, quelli che si comprano per gli impianti di casa, ho comprato una di quelle scatole tipo tabacchiera e ne ho messo 6 dentro, anzi 5, più l'interruttore illuminato, no, quello che ti illumina, per staccarla, perché quelle che comprate sempre fanno difetto, sono difettosi, anche tabacchiere, cioè anche ciabatte da 25 euro, sono sempre difettosi, Gianni. Infatti, Gianni, quella del televisore, dove c'è il televisore, c'è il forno a microonde, eccetera, quella lì lo stesso mi ha fatto lo stesso difetto, la spia che c'è, dove c'è proprio l'interruttore, se si spegne fa brr brr brr, si sente come se fosse un corto, e allora l'ho cambiata, prima che parta si brucia qualcosa, l'ho cambiata, adesso devo cambiare questa, dai, e mi devo decidere, cambiarla e buonanotte. Ok, già, no, io ripeto, come ti ho detto, me la sono autocostruita, ho comprato 5 prese, lì la bricola stessa ci sono, non costano molto, intorno ai 2 euro e qualcosa, così, e ho comprato, c'è la scatola, no, si inseriscono dentro i frutti, e ho comprato 5 prese e un interruttore, e me la sono autocostruita, così almeno quando attacchi la spina è come attaccare alla presa di casa, di quella che c'è nel muro, capito? Altro che ciabatta è così, confermi Tony. Poi non c'è farato. No, sì. Ho giocato per il cane. Hai sentito cosa ti ha fatto l'interrogativo che ti ha fatto il Giulio? No, negativo, perché sono stato girato di nuovo mille trove. Te lo ripeto, Tony. Stavo dicendo, stavamo parlando di ciabatta, no? Sono sempre difettosi, anche le ciabatte da 25 euro sono sempre difettosi. Allora cosa ho pensato? Sono andato da Blico, mi ho comprato 5 prese frutto, quelle da incastro, quelle che si usano per gli impianti di casa, no? Più l'interruttore, sempre da incastro. Ho comprato la scatola che si inseriscono i frutti, quelli per esterno, la scatola quelli per esterno, no? E me la sono autocostruita, almeno è tranquilla la questione, è come attaccare la spina alla presa normale dell'impianto elettrico di casa. Io l'avevo fatto lo stesso, ho fatto una bella scatola in legno però, perché è più isolato tra l'altro, ho messo quella in cassa eccetera eccetera, e poi ci ho messo un interruttore bipolare, con un interruttore bipolare davo tensione a tutte le prese, oppure le eliminavo del tutte, non è che io attaccavo la spina e già avevo la tensione nelle prese, no, e è fatto bene a fare così, diciamo, capito, che poi ho messo a cavo anche un impolare, no, un impolare, pardon, non era un impolare, era un multiplico da 3 per 2,5 innanzitutto, perché quello che sono le ciabatte è da 0,5 addirittura fino, e non ho capito perché ne vendono queste ciabatte, uno ci attacca 1500 watt, 2000 watt, si brucia, si sciogliene, non esiste. Non ci può attaccare neanche il 5-600 watt perché è un casino. Sì, beh certo che sì. Sì, infatti anch'io ho usato il filo da 2,5, certo, 2,5, in modo che non ci siano problemi per il carico, eccetera. Ma per dire la verità, tutto l'impianto mio di casa è fatto tutto con 2,5, oltre ai 4 mm quelli dell'alimentazione del contatore, insomma, ecco, se non hai capito. Per cui anche negli interruttori, anche nelle discese, anche per gli interruttori ho utilizzato quello, tutto da 2,5, senza guardare via il risparmio, anche se bastavano da 1,5 lì per gli interruttori. Ok, riprendi Tony e fai girare. Allora. Anche io dove c'è la mia casa, la mia ex, la casa, praticamente ho triplicato da zero, quindi il contatore fino al sulla vita differenziale da 4. Ovviamente anche la massa, il PE, da 4, giustamente. Poi va andare a scatola di rilevazione del 2,5 e 1,5 per gli interruttori e la padina. Praticamente è tutto 2,5. Per avere oppure si può mettere anche 2,5 per anche per le lampadine e anche per gli interruttori, ma sono tutti sprecati, perché sappiamo benissimo che ormai stiamo usando anche le lampade a LED, tutto questo assorbimento non ce l'ha comunque. Niente, e poi giustamente cosa devi attaccare in casa, e questo che è fatto, giustamente un salito differenziale da 25 ampere per un'abitazione civile, ma se io devo attaccare, giustamente, quindi posso dire, devo attaccare, non so, un computer, devo attaccare un forno, due forni, devo attaccare allora mi devo fare il calcolo. E poi la legge degli ohm praticamente deve fare una cosa, contare tutti i watt che c'hai, le somme le fai diviso 22, capito? Sarebbe la corrente 220, si ha giustamente l'amperaggio che tu puoi mettere, un metro timico da 20A, 30A o 40A, dipende dai watt che tu consumi. Sì, certo che sì, ma lo so, io ho fatto da giovane, ho fatto l'elettricista, per cui queste cose me le ricordo sempre. Sì, ma io ho fatto tutto a 2,5, ma a dire la verità anche in falegnameria avevo tutto l'impianto, tutto a 2,5, l'ho utilizzato per 50 anni, l'ho utilizzato anche oltre 50 anni di lavoro, per cui i motori erano motori, non erano motori da 4-5 cavalli l'uno, li attaccavo anche tutti insieme tranquillamente, non c'era la minima dispersione, nemmeno nel minimo riscaldamento dei cavi, niente, tutto a posto, da 2,5 era eccezionale, va bene così. Va bene, riprendi e fai girare per Gianni, vai. Okay. Sì, poi non so se i motori tuoi erano 380, 220, boh, vabbè, insomma. Ok, già, ripeti. Ehi, aiuto, io ho visto lì a Davide. No, Davide aveva cambiato lavoro, è entrato a fare manutenzione in un ospedale, però fa di tutto, non so lo specifico lavoro che fa, però lo so che fa di tutto, dai, manutenzione in ospedale, con un'azienda, cioè con una ditta però, non a conto di spedire l'ospedale, con una ditta. Ho capito, sì, lo sapevo quello, perché ce l'avevamo sentiti su internet, su WhatsApp, e me l'aveva detto. Ha detto che gli è dispiaciuto molto chiudere il negozio, però dice già, a un certo punto, a conti fatti, conviene più lavorare a conto di altri. Dai. Sì Gianni, sai qual è il problema dell'imprenditore, o perlomeno del piccolo imprenditore? Il primo difetto, tra virgolette, è il fatto di non avere il tuo magazzino di proprietà, perché tu quando incominci a pagare 600, 650 euro di affitto, già ti stai mettendo nei pasticci, e così purtroppo è la Davide. Invece io avevo lavorato un momento sempre per dare il magazzino, per tutta la vita, praticamente quasi tutta la vita non ho mai pagato l'affitto, perché l'avevo comprato a locale. Così che bisogna iniziare e andare avanti in quella maniera, così se hai un cano di lavoro sei sempre al sicuro, se con le spalle al sicuro. Confermi Tony? Ti ho capito sotto fondo, perché ti stanno mettendo un paio di chili portante, però passavi sotto un po' distorto. Vabbè, pazienza, che posso fare, io mi faccio appena così vediamo se invece arrivo meglio, dai, così dovrei arrivare meglio. Sì, ma in effetti è così, io sempre sotto principale, grazie a Dio, assicurato, perché ci sa, giustamente, se il laboratorio è tuo, la luce, quello, le tasse, guarda, già solo con le tasse il governo ci sta assassinando, ci ha sempre assassinato e continua a assassinarci, cioè a me addirittura sulla tredicesima la pensione mi hanno invocato il 300 euro, conguaglio imperf, ma scusa, conguaglio imperf, finché modo sappiamo benissimo che sono le tasse tanti invalidi, ma scusa, io un invalido e mi devo pigliare le tasse da rendere a me stessi, vedi Giulio come governo. Sì, purtroppo è così, io cosa ci vuoi fare, d'altronde la ritranga bisogna mantenerla lo stesso, perché intanto noi non possiamo farci niente, loro ci hanno trattato in questo modo e bisogna, chi ha voglia di lavorare, cioè chi ha necessità di lavorare deve andare avanti così. Scusate il telefono, dai, lo prendi già. Dai, ce la devo come se la portate, ma la passi come ieri, è come se fossi con l'iniera attaccato, che non va bene, è così, e vabbè. Deve essere qualcuno ce l'ha con te, non ho capito perché. Avanti, se ci sei, Natalino. Natalino se n'è andato a mangiare, Natalino se n'è andato a mangiare. Tonino, com'era il minestrone? Ma guarda, lo aspetto poco fa, Carlo. Ma col profumo che c'è, allora io mi metto sempre, perché non mi so regolare col sale, perché non le voglio mettere. Allora ci metto un bel dado. E poi ci metto un filo di olio d'oliva, extravergine d'oliva, perché ce l'ho proprio d'oliva. Poi ci ho messo anche un po' di ceci precotti in barattolo, col vetro però, quelli grandi, ci ho sbattuti dentro. poi ci ho messo una bella sfoglia, due o tre foglie a loro, ho fatto cucinare, ma guarda, minimo cuoce, due ore e mezzo, si è consumata quasi tutta l'eva, a me pensi così. E più che il profumo, guarda, ho detto no, mangio più tardi, ancora no, quando viene la mia compagnetta, così mangiamo insieme, anzi devo la pizza, allora io pizza non ne voglio cucinare, faccio minestrone, così ho fatto, se devo mangiare minestrone, mi sono la pizza, andrò, ce la faccio, andrà bene. Comunque Carlo, come ci hai sentito sempre nel viaggio? Sempre bene, adesso sono dentro Sassari, sono dove c'è Tanit, alla rotatoria, e quindi sono arrivato già a Sassari, però vi sentivo, sentivo Giulio tranquillamente, che passava la portante. Sì, anche qua, un po' di sotto me la passava. Avanti già. Comunque deve essere qua in zona, perché se lo passa da me, Giulio arriva forte da me. Deve essere qualcuno in macchina sicuramente. Ma Gianni, ti dirò una cosa, che io ho fermato la portante e anche Giulio. E la portante è superiore a Giulio, a un bel po' addirittura. Arriva un po' più forte di Giulio. Se Giulio è 9.10, la portante arriva a 9.20. Però passa sotto, si sente, se lui poco può si mette a fischiare, fa un casino, io non lo sento più a Giulio. Lo so, si sente come se avesse un lineare attaccato, Giulio, che non va bene, che distorce, così si sente. E a me come mi sentivi, Carlo? A te ti sentivo dai parcheggi dell'aeroporto, tu arrivi forte là, arrivi bene. Cappa, mezzo gaia, meglio così. No, ma anche così vero, già arrivo bene. Adesso sto usando il Ruiz, è un onnetto questo qua, il nonnetto della mia stazione. Oh già, io non mi meraviglio perché una volta ho chiesto un controllo a uno che era proprio all'aeroporto e mi ha detto, ma cosa hai fatto? No, niente, perché sei talmente forte che hai acceso il motore dell'aereo. Sono abbarrato. Eia, Carlo, questa è la bellina, dai. Eia, già va bene, sì, ma sentivo anche Giulio. A te ti ho iniziato a sentire quando era tutto bella. Prima ti sentivo passo passo, incomprensibile, ma io ho anche un'antenna posticcia, domani se mi ricordo mi metto quella più lunga, così vi sento anche da prima. Ce ne ho due o tre io, ho la S9, quella della Midland, che è una bomba, capito? Va da 26 a 30 MHz, ci puoi attaccare anche 300 watt ed è alta un metro e 1,75, una cosa del genere. Io Midland non ne ho mai avuto, oppure Sigma. Io questa ce l'ho da tanto tempo, però è sempre andata bene, capito? Anche come taratura, facile da tarare, come la metto, quando attacco il linearetto è che mi sale un po' il ROS, capito? Me ne va 2,18. No, troppo sale. A me con lo stesso linearetto mi saliva da 1,1 a 1,4 massimo. Oh già, entrato. C'era uno che è entrato, adesso sono rientrato. Chi è entrato? Avanti giù. Ok. Sì, vabbè, dai, se non so se c'è ancora la portante. Comunque, io esco con 2 watt, dunque non è che ho molte pretese, ma ad ogni modo mi state ascoltando lo stesso, anche se è un po' male, però mi ascoltate ugualmente, va bene così. Però vi devo lasciare, dai, mi hanno già chiamato per la cena. In questi giorni siamo in anticipo, noi con la cena, di solito verso le 8, va. Invece era domani, mi moglie deve prendere il video, e intorno alle 7:30, vabbè, comunque va bene lo stesso. Ciao Donino, grazie per la chiacchierata, ciao Gianni, ciao Carlo, salutoni a tutti, ascolto il vostro Pinolino, dopo chiuso, avanti Tonino. Ecco, fatto la rimessa, per io ti sento lo stesso, sotto ma ti sento, tipo una ragione vibrata, ok, va bene, col vibratore sì, Giulio, ok, ciao, buon carica, saluto a Corea, ci sentiamo Giulio, avanti Gianni. Ehi, arrauca, arrauca. Ciao Giulio, ci sentiamo, grazie per il QSO. Niente, dai, buona serata e buona carica quando la fai. Avanti Carlo. Ciao Giulio, buonasera, sono davanti a casa di Natalino adesso. Già ti ho sentito sempre. Ciao Giulio, alle prossime, vai Gianni. Scappa. spara di l'antenna. Ciao, ciao Giù, ci sentiamo. Torino, avanti. E cappa. Adesso mi si riposa Gianni, verso le 8:30 che arriva lì, 9:15, allora iniziamo a mangiare. Se il macellino ci va a prendere la pizza, quasi mai, a che non esco? Cioè non esco, poi innanzitutto non c'ho macchina, già lo sai, purtroppo mi ha ingannato anche oggi. Tony. Eia. Ero io che sono tornato, scusate, perché appena finito ho sistemato l'apparecchio, perché l'ho staccato, perché era tutti i feeling arbugliati. Io trovate che sono rientrato, però tu non sei rientrato, io pensavo che tu eri a Giulio, ma mi sei andato a posto perché la voce era più bassa, la tua. No, ero io, perché come sei andato via tu, dopo un minuto sono andato via io, perché mi sono messo a staccare il baracchino, ho cambiato il posto dove il baracchino, perché mi si stava spingarbugliando, quindi l'ho sistemato e niente. Infatti è stata una battuta, lo so ritratto, che tu hai fatto qui X, l'aveva detto, io ho detto ma speriamo che non si ha preso la carriola di spostarsi da Roma. No, già lo stavo sentendo, comunque già lo ricordo quando la dovevo spostare, però si è passato quel periodo, meno male adesso sono dentro casa. Ciao Riccardi, abbassa con la radio che non capisco nulla, sei troppo vicino. Troppo vicino sono, allora l'ho abbassata un po'. Non sono troppo vicino al microfono, magari provate a abbassare un po' con la manopola, così va un po' meglio. Io ti sento male. La dovresti abbassare ancora, si sente troppo rimbombante, non si capisce ciò che dici. Io lo sento bene già qua. Guarda, l'ho abbassato un altro po', e così va meglio. Adesso va meglio, dai. Adesso siamo vicini, Tony. Adesso siete vicini. Anch'io sono vicino di andare con lui. A me mi arriva talmente forte che ho rimbombante la radio. Tu sei più vicino di me, quello sento per dubbio. Fai di aria, io sono dritto verso di lui lo stesso. Vabbè, io lo sento così, non so se ci posso fare nulla. Attacco un altro apparecchio, vediamo un po'. Ma voi vi ascolto tutti bene. Cosa attacca il tuo apparecchio già? Rimani con questo qua, cioè siete bene, dai, cavolo. Perché tanto mi... già meno 20, ma fra poco io chiudo più, fra meno quarto, altri 5-7 minuti, adesso chiudo anch'io. Che mi guardo per giornale troppo. Avanti Natalino. No, Natalino non c'è, cioè, se in due siamo rimasti, Giulio ce n'è andato, boh. Sono di numero all'8 Gianni. Ciao a tutti, io sono quasi arrivato, via Luna e Sole per me. Non so chi era l'altro, Riccardo, ho capito, l'ho sentito per un tratto e adesso non lo sento più. E le mura non andemmo. E via Carlo. Ehi Riccardo, Riccardino era. Oh Carlo. Avanti Lu. Dove è Riccardino mi sento. Ehi, ciao, ben sentito, da un po' non ti sentivo. Ciao bello, come stai? Bene, dai, sto a posto, tu. Quello che è a posto, lo lasciamo a posto. Intanto ti fai sentire, dai, va bene. Ok, ascolta, anch'io un po'. Segnale 8, però un po' cupo alla radio. No, aspetta, provo a mettere il palmare. Ciao Carlo, rientrando. Ciao Luca, sto parcheggiando sotto casa mia, via Dau. Ma hai fatto la stamattina e finita adesso, quante ore fai? 8 ore, dalle 11 alle 19 oggi. Va bene, dai. Poi alla fine sei sempre, oddio, al caldo no, al freddo, fuori rimane, o c'è l'aereo, così. No, io sto dentro, ai controlli di sicurezza. Allora va bene, non bene, nel caldo e nel freddo, dai. No, poi non c'era granché da fare, c'erano tutti fuori oggi. Poi pulito sempre, no caro, te ne vai pulito da lì, alla fine non manco ti sporchi. No, assolutamente no, già è un lavoro pulito e nostro. Ehi, allora, comunque ci mettiamo d'accordo con quella roba là, dai, Carlo, se mi fa questa cortesia, così magari vado un po' di recuperare una fototessera, riusciamo a mettere una fototessera o devo fare una foto subito, come funziona. Già facciamo tutto, Luca, guarda, domattina sono a casa, già sento la radio, magari chiamami così. Vedo un po' cosa c'è per il in diretta, sul computer ne dovrei avere qualcuno già salvato. Poi non mi importa niente, se lo zio magari via WhatsApp, via mail, facci tutto quello che vuoi, se lo vuoi canalizzare o me lo dai, se lo canalizzo, via PC, non è un problema, dai, che ci sentiamo domani. Io sto sentendo, saluto Gianni, Tonino, non so se c'è ancora... Ciao Carlo, ciao, buona carica quando la fai, grazie per il QSO, dai. Avanti Luca, riprendi sveglia a Carlo, là. Ci sentiamo domani mattina nel caso, che ti avete telefono, va bene. Ok. Ma che ho mi accetto che sto mangiando, riprendete un attimo, mi sono preso due pizze, c'ho fame. Vabbè, ciao Carlo, buon pomeriggio, ci sentiamo, stanno bene, saluto nel cuore. Avanti già. Sveglia. Aspetta che mi stanno chiamando. Cappa, Luca sta mangiando le pizze. Vabbè. E io gioco ferma pure. Ci cadono bene chi te non riesce a mangiare. Dai, dimenticavo. Mi sa che io mangio le stesse che non c'ho fame. Eccomi. Sono andato da Ponti che già mangiava a prendere le pizze. Ma quanto te ne mangi? Due. Io il doppio. Sì, dipende, già, non ho molta fame, perché ho fatto merenda anche, capito? Se me ne mangio anche tre, anche quattro, dipende dalla fame. Se ho un po' di fame anche quattro me ne mangio. Come la ne prendiamo? Sì, da qua giù. Quattro me ne mangio io e due lì. Sì, già andava. Sai che mamma sta esagerando, quando ci ho mangiato un bel tartotto di pasta, e stavolta la pizza. Ieri erano tremendamente buone, belle croccanti, buone, frutto piene di mozzarella, molto fatte bene, dai. Lo sai che un giorno me ne ha portate che erano un po' oleose, un giorno solo, deve essere che ha cambiato mano, non mi viaggiare nulla, erano tutti bucciucciosi, non va. E poi non ho comprato per un po' di tempo, adesso le ho riprese e sono buone. Oh già, ma però chi fa un intervento che se ha, cosa ne so, qualche dente mobile glielo fanno le fare. Sì. Anche i ponti, se c'è qualche ponte te lo devi togliere. Ma allora c'è vero, perché già? Perché se durante l'operazione molla un po', dovrebbe ingoiare. Non va bene, dai, tenerlo in bocca, danno problemi nell'operazione, perché quando tu ti fai l'anestesia si rilassano tutti i muscoli, capito? Allora pure chi ha la dentiera, che la lefano. Esatto, io per lì avevo un ponte e l'ho tolto quando mi hanno operato. Non ho capito, invece che ci siamo no, non li può levare. No, quelli lì no. Se sono fissi no, lui. Se sta ballando qualche dente oppure se c'hai qualche ponte, capito? Ho capito. Però che c'è, tu pensi magari uno non lo può far sapere che ce l'ha, che vergogna, cazzo. Ormai quando io sono entrato mi hanno fatto entrare in questo stanzino, mi hanno fatto tutte le domande, se avevo denti mobili, se soffrivo di allergie, e poi adesso le misuriamo la glicemia. Quando sono partito da casa ce l'avevo a 127, no? La glicemia. E sto a posto. Sono arrivato lì 200 e passa. Dice, come ce l'ha così alta la glicemia? Non lo so, forse la preoccupazione. La cagarella me l'ha fatta aumentare. Cioè avevo 127, l'ho misurato a casa. Lo fa, attenzione. Allora, attenzione, mi fa andare in gabinetto, è vero, sto scherzando, ma sono nervoso, ma riprendere, mamma mia, mi manda proprio in bagno. Poi mi hanno fatto un flebo di, tu mi dai il contrario, mi hanno fatto un flebo di glucosio. E quando è salita la cosa mi hanno fatto una puntura d'insulina per farmela abbassare. E il glucosio non ci vuole bene, l'ho detto, me ne fate altri 30 e va bene così. Io mi conosco come sono fatto, no, non possiamo perché si abbassa troppo, non possiamo operarla. E allora mi hanno fatto il glucosio, me l'hanno fatto salire e poi mi hanno fatto l'iniezione per farla abbassare. Perché quando io sono andato per parlare con l'anestesista, questo di me ha fatto anche rimanere male, che mi ha detto di aprire la bocca, se purtroppo vedi da sistemarmi. Nel senso, perché ci dà così, e bumba, ci dà così perché purtroppo ho avuto la possibilità di curarli. Cioè, ma mi ha fatto rimanere male, cazzo era da pigliare, a c'è fa bocca che c'è macca. Non ci pensano che gli altri possano avere problemi e non poterlo fare, così da futti, perché loro hanno i soldi, quindi cosa gliene frega di chi non può farlo. Non ci pensano nemmeno, capito? Non è un problema loro e quindi non ci pensano. Ma adesso mi ci mettono la faccia in culo, io ce li ho già a posto, non ne ho manco uno guasto. Ma adesso che si muovono? No. Allora, praticamente c'ho uno Flagging Walk, praticamente è successo questo problema qua, è fisso, ovviamente col perno, no, con la vite. Gioca un po' perché si è mollato da cemento, infatti quello lo so, dopo smontare e cementare di nuovo. Quando io ci mastico sopra, mangio tutto, tutto il possibile, romadura, patatine, cos'è? Tu pensi anche il gatto è duro, mi, però piano, però ce lo so mangiato. Ma tu li hanno incementati? Come? Li hanno incementati, non sono vite bullone. No, allora, moncone diciamo, no? Il dente proprio. Ha una sorta di, non ti posso dire, una specie di moccoletta, no? Lì è cementata già. Sicuramente magari ho mangiato roba troppo dura, pensi un po', comunque lo devo smontare, adesso sono a posto, ma c'è gli altri sono cementati. Quelli che ho, i molari alla destra, quelli sì, quelli altri sono fissi già, con le viti. Perché quelli con cemento danno sempre problemi, si muovono, fanno, poi devi ritornare, c'è quello fisso, il cemento, che praticamente non si molla più, ma non te lo mette nessuno, poi dice che se devono pulirli, poi devono toglierli, quindi ti mettono quello, diciamo, posticcio, diciamo così, non fisso. E poi praticamente quando devono pulirli te li tolgono e guarda, per toglierli è un dolore allucinante. Mettono questa specie di stantuffo, gli danno i colpi, bu, si raggano lì. Già, guarda, lascia aperta che io sono 2 anni appresso a loro. Aspetta che sgancio qualche. Sono 2 anni appresso a loro già. Adesso lui a quanto pare si è stancato, perché guarda, ti faccio ridere. Aspetta. Allora, dentista. Allora. Appuntamento che sono andato il 14 dicembre, malato a gennaio, il 12 gennaio ore 12. Poi mi manda il messaggio, ciao Luca, primo gennaio non c'è il tecnico, vieni il 18 alle 13.45. Questo è oggi, ciao Luca, oggi abbiamo 12. Ciao Luca, ho necessità di spostare l'appuntamento al 25 gennaio alle ore 12, sto per sapere se riesco. Io gli ho scritto, guarda, ciao, guarda, sono messo male con il naso, respiro male, vedo cosa posso fare, ci aggiorniamo. Mi ha messo il dito che. Okay. Ma aspettavo loro, visto che gli avevo dato ancora soldi, e sai che manco ci vado. Sono così, anche il mio faceva così. Ma a me mi chiamava al telefono, mi diceva, già c'ho un problema, non venire, che io magari ho già pronto banda e mi avvisava all'ultimo momento. Non viene il meccanico dentista, quindi non può fare l'impronta, questo e quell'altro, bumba. E mi rimandava gli appuntamenti. Io sono stato più di 2 anni appresso a lui. Io faccio 2 anni a maggio. Io voglio proprio capire questi violacci che dicono in un giorno, come cacchio fanno, ma poi se hai problemi, se ti dà, se ti irrita la gengiva, che tocca, che deve ritoccare il meccanico dentista, eccetera, e come fai? Non ho capito, scusa, già stavo ascoltando un messaggio, dimmi. Ho detto, come faranno questi in Croazia che dicono che in un giorno praticamente fanno tutto, eccetera, eccetera. E se hai problemi che ti irrita la gengiva, che devono fare dei ritocchi, eccetera, eccetera, come fai? Lo so, già, un casino. Ma sotto, cioè, a me non mi prendevo l'appuntamento dopo 2 settimane, andavo lì, un'occhiata, cosa cazzo mi fa venire a fare? Non male che cazzo mi nervosisco. Quanti giorni ho detto, ma a me sono stancato di venire qua. Non avere questi atteggiamenti nei miei confronti, se questo è lui, il dentista. Dai, stavo andando via. No, va bene così, io sto pagando, Anche se mi stai facendo un prezzaccio, come ha detto lui, e questo qua è un lavoro di tanti soldi. Non mi devi ragionare così. Ma mi devi trattare come un cliente normale, io sto pagando, io ho fatto un sacrificio a mettermi da parte quei soldi. Cosa cazzo mi rompi i coglioni? Se io ti dico che una cosa non va bene, devi ascoltare che non va bene. Non che fai, no, sono io il dentista. Ma se mi dà fastidio, mi dà fastidio. Allora, se mi ha detto che come finiva gennaio, non ne voleva più sapere. Ma modi di rispondere sono. Cioè, te ci ho pagato, te ci ho pagato. Cosa cazzo vuoi? Ma se non sono discreto, molto ti ha fatto pagare. Fa fa quasi 10.000. Io ho già pagato di più. ho pagato 18. Però vabbè, io faccio una macchina e mo. Però il mio non era così. Il mio mi ascoltava anche perché vabbè lo conosco da tanto tempo, eccetera. Però non mi ha soddisfatto a me. La prima che mi ha fatto, il primo che mi ha fatto mi si è stata sgretolata e ho dovuto aggiungere 1.000 euro, dice 1.000 ce la metti e 1.000 tu. Perché ce la devo mettere, non è in garanzia il lavoro. No, ma queste qui sono cose che costano, non si può fare in garanzia una cosa, vabbè, cioè non mi vedi più a me. Non vuoi che la domanda della fattura, metto che non è l'unico scemo, per non dire la parola che ha detto, a fare le fatture che non le faceva nessuno. Ma lo dico già, se bravo, la prima cosa sbagliata. Ho fatto un'impronta, sbagliato, già ero troppo alti, che sembravo, come si chiama? Uno scoiato, questi gattini troppo sporgenti. Poi non riuscivo a parlare bene. Adesso questi qua che mi ha fatto lo stesso. Lo sono fatti bene, sono ruvidi. C'è disoccupagendi, ti sto pagando. Poi ogni tanto me ne saltava l'otturazione dove c'è la vite. Cioè, ma me ne fai bene le cose o no? Ma è normale che io, se vuoi su, io ti do, mi hai chiesto all'inizio 3.000 euro, pronti, ho separato, poi la seconda volta me ne hai chiesto 1.500, poi altri 3.000, cosa cazzo vuoi? Disoccupagendi di nato, disoccupagendi. E poi mi tratti in quella maniera lì, che sto dicendo che a lui lo denuncio, non ci credo lo denuncio, ma fai un cazzo a me, perché se lui sta facendo risparmiare, a me non mi deve trattare così. Cioè questa buona pure di rimane innato, a me non me la putti nulla di... Solo che poi passi i casini, è quello, A me si giocano solo le balle, i succhi si piglia, a me mi deve trattare bene, io sono un cliente come sono tutti gli altri, ti sto pagando, ogni qualvolta tu mi chiedi soldi e ti riporto, e poi mi tratti in quella maniera lì, oh, giovanotto. Ma giovane questo qua? 67 anni, Perché so che il padre se ne doveva andare, doveva entrare il figlio. Non lo so se poi l'ha fatto, capito? Te l'ho detto, te l'ho parlato, no? Io voglio rispetto, ti sto pagando. Se non l'avessi fatto è gratis, se non avrei detto va. Anche così l'avrei tenuto, andavano bene comunque. Purtroppo sono gratis, ma ci sono pagandi. Io ho fatto un sacrificio già, mettono i miei soldi da parte per farmi il lavoro e tu mi tratti in quella maniera lì, cioè mi sono fatto un culo la verità, perché oggi 100, domani 150, messi da parte ho fatto il lavoro. Ma loro, capito, loro ti fanno risparmiare, però poi non ti fanno le cose come ti devono fare, e c'è quella la ragione, capito? E vabbè. Adesso tu vedi un po', ma adesso tu hai problemi, Edith. No, non ho problemi già. Però c'è da rivedere qualcosa. Perché i patti erano quelli che lui metteva in condizione di stare bene. Però se io ho un problema, lo deve risolvere. Non ti dici, questo qua lo risolviamo. Poi quello che mi dà fastidio, sai cos'è? Ti faccio andare lì. Dice, guarda, questo qua si muove. E quello poi l'ho smontato. Due volte sono andato qui. E due volte non ho fatto un cazzo. E dice, poi lo facciamo la prossima volta. Non mi si viene di malo culo. Ma che cazzo mi fai venire qua per vedere, E poi mi mandi via. Oh, Giovanni, mi aiuto pure io, faccio cosa da fare. Non lo sarà pensato attaccato al culo tuo. Poi mi danno orari di merda. Cioè, mezzogiorno, l'una, le 2:15. Oh, è un orario buono, la mattina. Guarda, c'è a perdere già. Vabbè, Luda. Adesso ti guarderai le ultime volte, così finisci. Basta. Ruvidi come lui? Non ho capito se sono ruvidi sotto, se sono ruvidi davanti, in che senso ruvidi lì? No, io parlo i molari già, no? Lì dove poi ci facciamo per coprire dove c'è il buco, c'è la vite, no? Lì, sono ruvidi, tu non puoi mettere il cemento o cosa cazzo mettono per coprire la vite, potevi mettere solo quel punto lì, no? Che tu me lo spargi nel dente. Sono ruvidi già, non te lo devo dire io, ma ci sono tante altre cose già, non è quello. Vabbè, mi si girano solo le balle boh, perché ripeto, ho fatto un sacrificio, mettere i soldi da parte e poi, boh, ma stiamo scherzando, se non lo potevi fare il lavoro, non lo facevi. Poi lui mi ha detto che si poteva fare la ricostruzione dell'osso, visto che ho un problema dell'osso, va bene, si fa. E guarda, qua non lo fai però, da me non lo fai, cioè ma non siamo dei punti. Se vuoi dirmi, guarda che mi attacco male, è che mi rovino già, guarda, mi rovino. Forse perché ha visto che tu gli rispondi, capito? Non sopportano queste cose. No, lui può fare il cazzo che vuole, no? Se io dico una cosa non va bene, non va bene. Poi, la divitalità di un dente che poi lo dava il vale, il giorno, secondo me tanto lo faccio vedere. Cosa cazzo me lo divitalizzi? Prima te lo costruivo, adesso no, non ti ho detto niente. Poi mi ha detto una cosa, io non ti ho detto niente. E mi dà pure un po' fauraggio. E mi dice le cose, poi se le rega. Un po' di mezzo di coglioni, insomma, mi vale. Però sto dicendo, guarda, credimi Gianni, che io mi rovino, me la fotto un cazzo a me. Allora, io ultimamente sono andato a quello di via Civitavecchia, ed è bravissimo, Basente. Però mi hanno fatto il preventivo con tutte le cose che mi facevano scritto e in più il totale scritto sotto e lo sconto che mi facevano. C'era tutto preventivato, capito? Guarda, mio amico ce l'ha fatto sotto e sopra, il mio vicino di casa, sotto e sopra. In 6 mesi, fai un anno neanche, forse un anno. C'era definitivi già, in zirconio, è stato 10.000 euro. Perché bisogna sapere dove andare, capito? Ci vuole qualcuno che ti strada, bisogna chiedere prima di fare, perché se vai dal primo che capita, poi magari hai delle sorprese. Bisogna sapere chi ci è andato, come l'hanno trattato, capito? In zirconio sono anche, diciamo, duraturi, non sono... L'hanno fatto sopra e sotto. In Croazia è andato, dove è andato? In Croazia. Ho avuto un problema dell'osso già, li hanno ricostruito. Non hanno fatto storie. Ma a me adesso non mi rifà, ma senti, quella cosa non va bene, non va bene. Non combaciano. Senti, quello non combaciano. Ho dovuto dire io di fare quello che dovevo fare. Se sei tu il dentista, capisci quello che stai facendo. E poi già ne parliamo di persona, dai, qua non va a parlare. A me quando mi ha fatto la masticazione mi ha messo questa specie di carta carbonata, tu come spingi ti fai segno dei denti, no? Per guardare la regolazione giusta. E poi mi ha preso l'impronta bene e mi ha fatto la masticazione giusta, capito? Io non ho problemi di masticare, mastico mangio tutto, dalle mandorle, per le mandorle sono dure, anche il cartone ho mangiato che è durissimo, ma è quello il discorso già, certo non devo approfittare, perché alla fine sai com'è, no? Comunque, ci sono delle cose, delle piccolezze che bisogna riprendere. Lui stavolta si è stancato, se dico questo e questo e quello, così, se non dico niente, rimane così com'è, invece devo parlare, per lui parlare, io parlo non va bene, è quello, No, una cosa rimane alla volta, e poi se me ne salaria sotto la mascherina, e se lui te ne lascia perdere, guarda che, se c'è che, guarda, mi rovino, se dico una pizza a faccia, cazzo, li faccio. Che dalla ragione ci faccia al torto pure. La violenza non si usa mai, bisogna saper prendere con le parole le persone e ragionare, farle ragionare. Io ti dico la verità, la seconda che mi ha messo non mi ha dato più problemi, ma la prima aveva un meccanico dentista che non serviva a nulla, era il materiale, lui mi ha detto che era perché mi masticavo i denti di notte, mi ha fatto comprare il Bait che costava 100 euro, un pezzo di gomma che sa che si muove il pugile, se era presente, 100 euro. Ah, c'è tutti i miei, se la c'è fatta. Sì, hanno studiato, vabbè, ma... comunque quello che stanno io è uno dei più cari, eh. È uno dei più cari in Sardegna, c'è a Sassari. Allora, quello che ha messo gli impianti è Azena, quello è bravo. Ha preso la camma, tranquilla, non come quello là, sempre nervoso. Cazzo, vogliamo parlare delle impronte che mi ha preso. Non ci stacca i vedi. Se un dentista ci devi riuscire, sei un dentista. Come se io fossi una macchina da meccanico non mi ribuchi i piedi, vuol dire che non sei un meccanico. Scusa. Cazzo, 2 anni quasi, 2 anni. Dice, lo so, il problema è un bel grave, ho capito che è un bel grave, ma 2 anni. prendi più tempo per me, studia, poi vabbè, e sono tante altre cose già, non fa parlare qua, no, noi ci fare di rimagliacci. Se tu andavi dove ti dico io, la Masente ti trattava bene e faceva il lavoro come si deve. Se a me mi ha fatto tornare controllato 2, 3, 4 volte, fino a quando io stavo bene, che non mi dava più problemi, non mi ha mollato. Il lavoro me l'ha fatto bene, ho pagato 2.000 euro e via. E cosa devo fare? Già, purtroppo i denti sono importanti, la masticazione, sono tante cose, tante malattie, io avevo sempre problemi allo stomaco, e così, grazie a Dio sto bene, perché mastico bene, la verità, digerisco bene, alla grande. Ma infatti la digestione vuol dire molto, se non ci viene, non avere la masticazione giusta, la digestione viene prolungata e digerisci male. Avanti a tu, cavalli di lavantiere, eia. Che problema? Già lo so, Antu, ma era chi compra la Masente quello lì. È un casino, Già, prima ho pensato alla salute, mi stavo comprando la macchina, a me mi serve una macchina per, insomma, per fare qualcosa, qui su via. Però prima ho pensato alla salute, e poi la macchina, se riesco a entrare a Bosso, vediamo, faccio, devo fare dei curriculum, mandarli, vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa. Cappa. Vabbè, la macchina c'è sempre tempo, ne vendono anche per 2.000 euro di macchine, l'ultima puoi sempre comprare, è una macchina seconda mano e via. Tanto per iniziare, che tu c'è una patente da poco. Da poco, però ci vuoi 3 anni e ce l'ho da poco. Sto scherzando. No, una macchinetta che se devo viaggiare mi serve una macchinetta buona. Cosa ho visto? Vado un barello. Comunque su internet stanno vendendo veramente macchine belle a poco prezzo. C'è quel napoletano che le vede, non lo so se sono affari o se o se cacchio un briglione, ma le vende a poco prezzo le macchine. Ho visto diverse belline proprio tenute bene, esterno, interno, tutto, apri il cofano per farlo vedere, tutto. 2.800 euro, 2.000 euro. Comunque se tu la vuoi prendere in mano, ti conviene prendere una macchina aziendale che la usano poco e c'ha pochi chilometri tutto qua. Allora già, se faccio i conti bene bene, io da parte ci avevo dai 12 ai 13.000 euro. È una macchina che ci usciva. Comprarvi la Dacia, quella Dacia nuova è una bella, quella che è uscita nuova. A me piace, mi sono seduto silenzioso. Non mi posso comprare una macchina quando voglio un travaglio, l'assicurazione non me la paga, rubullo, la benzina, davvero un lavoro già, so come fai. Vabbè, in effetti è così, però, ohia, già lo trovi il lavoro, se lo cerchi già lo trovi. Qualche cosa ti uscirà prima o poi, Già, speriamo. Purtroppo in cantiere non ce la faccio, sono sincero. A Carrà e fa, non ce la fa, un casino, la schiena non me lo permette. Posso fare, insomma, quello che posso fare, ecco, diciamo così. Non posso fare più di tanto. Casino. Adesso vediamo, là. Io ti mando questi curriculum, se riesco, non dico niente, però due o tre lavori in ballo, dai. Vabbè, non dire niente, che ho detto una cosa e poi mi è andata male. Questo qua vuole il curriculum, adesso me li fa un amico, là, li prepara lui, vediamo un po', là, faccio le fotocopie, e vedo un po' se riesco a fare qualcosa. poi vabbè, sai cos'è il cantiere, c'è anche la polvere, più il problema che ho del naso, un casino, vabbè, non fa, ultimamente è proprio, sempre stata la polvere io, è impossibile. C'è uno con la mascherina. La fotografia mi metti nel curriculum, già lo sai. Beh, per forza, certo che vuole la fotografia. Metto la fotografia tua già. E metti la mia che prendono subito. Già lo so, e ti dico come ragazzi, non mi pigliare magari. Perché con questo lo paghiamo poco che personale. Io invece ho delle buone referenze dalla ditta che mi aveva fatto. Perché gli ho detto, se me la faceva, che magari se trovavo un altro lavoro non stavo più a viaggiare a Porto Torres, e mi ha fatto le referenze. E ha messo persona di fiducia, una persona, un grande lavoratore, eccetera, tutte queste cose qua. Mi ha messo solo cose buone. A forza deve mettere cose buone, scusa. Oggi Buffis, aspettava fino a che... Ti mi ha mandato dopo questo ritiro, no? Tracking. Ok, semplice che la spedizione. Cioè il tipo mi ha spedito la batteria già, la bicicletta. Adesso invece forse è qua. Aspetta che metto il numero un attimo. Ma tu ci sei? Oh, c'è la bicicletta. E la bicicletta il cacciò, sì. Ah, vero. E cosa l'hai comprata? Antonio me l'ha venduta, ad Antonio. Antonio te l'ha venduta? Via. Kappa. Ah, quella di Antonio, già la conosco, sì. Tu vado e va bene, perché tu c'è la cantina, sei in basso, puoi caricarla. Come era tu, scusa? Ah, Gianni. Ho detto che a te va bene, che tu la puoi caricare, che sei in basso. Ma a me come ti posso, devo alzarla a casa. Non ho capito già. Ma male sto scendo. Ripeti, cosa hai detto? Ho detto che a te va bene a caricare la batteria lì, che sei in basso. Ho detto, se la dovessi prendere io, cosa vuoi, sta a casa mi dà. No, la batteria si stacca già. Ah, si stacca? Certo. Io ogni volta devi stare attacchetti, boh. Vabbè, ma truba? Non è male, là. Quindi tra non ne stai più prendendo? Oggi, in questi giorni, sì. Anche per freddo? Vabbè. E anche non la usavo, per andare a lavoro la usavo, adesso c'è, è motorizzato, è mototoppo. Mototoppo. Antonio, sì. Hola, cambio. Adesso c'è il modulatore che mi sale a gogo. A manetta mi sale quando parto. Oh, dai, adesso vado, faccio da mangiare al cane. E così quando sale si trova a venire la roba pronta, che era l'ha portato giù. Ehi, va bene già. E già sono qua, cercando la spedizione. Ciao Gabriele, ciao. Perché arrabbiato? Te lo dico io cosa devi fare per farlo stare buono. Lo metti su tutto il braccio allungato a faccia in giù e dai colpiti sul sederino e piano piano e vedrai che si calma. Fino a 3 mesi hanno le coliche gassose, tanto te l'ho detto. Prova a mettere la faccia giù come ti ho detto io, e i colpetti sul sederino, vedrai. Io sono abituato, due ne ho avuto, quindi gli hanno rinato abbastanza. I bambini poverini hanno... possono solo piangere, non mica possono lamentarsi che c'è il dolore, c'è dire che c'è il dolore, che ci vuoi fare? Ma se da 3 mesi poi si stabiliscono, se da 3 mesi hanno le coliche gassose i bambini, e quindi gli viene mal di pancia, basta dargli appena appena di camomilla, già li passo, e li viaggi pure la camomilla. Vabbè raga, dai, io vado, ci sentiamo, grazie per il questo. Buona serata e buon tutto là. Saluto anche gli SWL in ascolto. Ciao ciao. Ciao.